Stasera ad Arco Iris, Chianciano Terme, quindi ci spostiamo da Valdobbiadene, andiamo verso il centro dell'Italia, una zona bellissima. Il tuo ecosistema, quello della tua azienda, che cosa c'è, che cosa vedi, che cosa ci puoi raccontare? È un gran casino, nel senso che da noi niente in ordine, tutto è apparentemente caotico. L'intervento sulla terra è minimo, noi non concimiamo in nessun modo i nostri terreni dal 1993, compresi i cereali, compresa l'orticoltura. Tutti gli impianti fissi hanno un inerbimento perenne dove si passa con... Domani niente traffico, niente macchine, a piedi, in bicicletta, il motorino. Benissimo, fantastico. Quando il seme spontaneo delle infestanti è maturo, viene schiacciato in terra per favorire la rinascita delle erbe cosiddette infestanti. E quindi tutto apparentemente è un gran casino, perché l'orto compreso è pieno di erbacce. Ed è stata un'esperienza, noi dopo anni non facevamo l'orto per mancanza di forze, e quest'anno nostro figlio più giovane si è dedicato a questa cosa. Allora tutta l'estate abbiamo raccolto questi frutti dell'orto meravigliosi. Arrivati alla fine c'erano le piante esauste. Bene, Walter si è presentato con l'erpice per passare l'orto, per ripulire. Io e mio figlio lo abbiamo guardato e abbiamo detto: domani. Siamo passati a mano a estirpare tutte le piante che erano arrivate alla fine, perché la macchina e il metallo avrebbero spaventato le nostre piante che ci avevano accompagnato tutta l'estate e ci avevano dato da mangiare. Questo è il sentimento che continuamente sentiamo, di amore, di gratitudine, di rapporto. Ogni volta che io tiro via una fogliolina di prezzemolo, e questo non è buddismo, è una sensazione di partecipazione, di amore verso quella pianta, che non si può descrivere. Io credo che questo forse potrebbe essere il regalo che si riesce a fare la città, se si riesce a portare da noi queste persone e farle mettere le mani nella terra, in questi profumi, nell'odore della terra bagnata, nell'odore, cioè si vive di sensazioni, di vita. Allora io quando tu hai letto il titolo di quel libro, no, quello di Veronelli, c'è una bella differenza tra quel libro e la guida attuale. Questo erano le cantine, quello di ora sono i vini. Allora io credo che questo significa un passaggio. Le cantine appartengono ai produttori, i vini a volte a chi li descrive o a chi li fa. Abbiamo il nostro amico Corrado della Distesa che dice: il vino senza l'enologo. Beh, anche noi lavoriamo senza l'enologo, nel senso che il nostro enologo è semplicemente un gabinetto di analisi che sta in Francia, quindi non ce l'abbiamo in cantina, così non ci dà la ricetta, come il medico, e viene due volte l'anno, si mette le mani nei capelli ogni volta che entra in vigna, appunto perché trova tutto sto gran casino di erba alta così, e dice: dai i suoi consigli, noi facciamo così con la testa, poi facciamo come ci pare. Questo è molto comodo. Mandiamo però a fare le analisi in Francia, perché il rapporto economico tra farle fare in Italia, e questa è per esempio una delle speculazioni legate anche ai tecnici di enologia. In Italia un'analisi completa del vino costa 127 euro in Toscana. da loro 5,40 euro. Bene. Quindi noi c'è una certa differenza. Ecco.